30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Mentre a Genova il sindaco Marta Vincenzi cerca di spiegare alla città quanto è accaduto venerdì 4 novembre nell'alluvione che ha causato 6 morti e chiede alla magistratura di accertare le responsabilità, a Borghetto Vara si celebrano i funerali di altre vittime del maltempo e dalla Francia arriva la notizia del ritrovamento di un corpo, è quello di Sauro Picconcelli, 55 anni, travolto da fango e acqua a Vernazza il 25 ottobre scorso e portato dalle correnti fino alla Costa Azzurra. Buonasera, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento del sabato con 30 minuti in cronaca. Dunque le Cinque Terre, la Lunigiana, poi Genova, l'Isola d'Elba, ma anche gli allarmi in Piemonte, in Lombardia, mentre appunto una mareggiata a metà settimana sconvolge letteralmente Nizza, portando sulla Promenade des Anglais onde alte fino a 5 metri. Insomma, giornate complicate dal punto di vista meteorologico, drammatiche in alcune circostanze di cui abbiamo parlato e continuiamo a fare nei nostri GR. Questa sera però vorremmo concentrarci proprio sull'elemento meteorologico da una parte, climatico dall'altro. Il nostro ospite è Luca Mercalli, meteorologo e climatologo. Grazie di essere con noi. Buonasera a tutti voi. Insomma, Mercalli, è stata una settimana a dir poco, una settimana lunga in realtà, un inizio di novembre molto complicato. Io vorrei chiedere proprio di ripercorrere quanto lei ha anche scritto in questi giorni. Una data di inizio può essere identificata con il 3 novembre, quando una depressione atlantica chiamata Queen si avvicina al Mediterraneo occidentale. Cos'è accaduto? È accaduto che, come sempre in questa stagione, all'inizio dell'autunno, il mar Mediterraneo è tiepido, ha immagazzinato tutto il calore dell'estate e quando iniziano le prime discese di aria fredda dal nord si generano le depressioni, che sono un fatto assolutamente normale per il nostro territorio, ma ogni tanto abbiamo una situazione particolare che si chiama di blocco, cioè si forma un'alta pressione sull'Europa orientale, sui Balcani, che fa un po' come un muro di gomma nel quale la prosecuzione di una depressione che si forma sul Tirreno è impedita, non riesce a spostarsi. Quindi invece di dare la classica giornata di pioggia che poi dopo si esaurisce e la depressione se ne va verso est, questa configurazione mantiene piogge intense per più giorni consecutivi e quindi è quasi sempre un indizio di possibili alluvioni. La previsione l'aveva identificato, così è stato, e allora cominciamo un po' questa narrazione rapida. Il 4 novembre comincia a spirare lo scirocco molto intenso, quindi vento da sud che si carica di umidità di nuovo sul mare, arriva sui primi rilievi dell'Appennino Ligure e immediatamente qui c'è un forte sollevamento indotto dal rilievo delle nubi e guarda caso sotto c'è Genova. Primo grande nubifragio, i 400 mm nel giro di una giornata, che sono una pioggia veramente rilevante. Ecco Mercalli, su questo punto le chiederei subito una precisazione. Già nel pomeriggio di venerdì noi eravamo qui in diretta a raccontare gli eventi con i nostri corrispondenti, esce un comunicato da parte del Comune di Genova e parla di 400 mm, e ricordo bene, non ce l'ho sotto gli occhi, si parla di metà della pioggia di fatto dell'intero anno. Ecco. Sì, per Genova forse non proprio metà, diciamo un terzo, perché a Genova siamo attorno ai 1000-1200 mm di pioggia all'anno, però va bene, siamo attorno a un terzo della pioggia che su Genova cade in un anno, che si è accumulata nel giro di poco più di una 12 ore. Ecco, quantitativi d'acqua così giganteschi su un luogo come Genova, quindi con un entroterra molto ripido, dove si formano quindi queste piene improvvise che impediscono completamente anche da parte del pubblico, delle persone, di mettersi in salvo in tempo, perché si tratta di colate di detriti e acqua che si realizzano in pochi minuti e questa è la ragione del fatto che Genova da sempre è soggetta a questi eventi. Ricordiamo il caso dell'ottobre 1970, molto simile, che diede in alcune zone però ancora più pioggia. È il massimo della pioggia italiana l'evento del 1970 a Bolzaneto, quindi il quartiere di Genova, dove si raccolsero quasi 1000 mm di acqua in un giorno, quindi la pioggia annuale venuta in un giorno, e rimane il record assoluto della pioggia più imponente registrata. E questo diceva nella alluvione anche citata del 1970. Quindi torneremo su questo punto, perché naturalmente poi ci poniamo degli interrogativi tra meteorologia e clima. Ecco, di fatto sulla zona del Mediterraneo, che appunto lambisce le coste toscane, ligure e via via fino alla Francia, si installa quello che è stato definito un Medicane, un Mediterranean Hurricane, quindi un piccolo, uragano del Mediterraneo. Un piccolo ciclone tropicale, piccolo, lo definiamo, nel senso che non sono certo delle strutture che hanno a che fare con i grandi cicloni delle zone, no, per intenderci, dell'Atlantico, dei Caraibi, però una struttura interessante, perché se ne sono già formati sul Mediterraneo, ma di solito nella zona più a sud, verso la Sicilia. Questo è quello più a nord che si è formato, anche perché più a nord di così finisce il Mediterraneo, e quindi il Golfo del Leone è stato sede di questa seconda depressione figlia della prima, che abbiamo poi battezzato Rolf, i nomi li dà l'Istituto di Meteorologia dell'Università di Berlino, quindi io l'avrei chiamato con un nome più italiano, poteva essere il ciclone Ciro, e beh, questo è stato chiamato Rolf. Ed è un cicloncino che però ha dato il colpo di coda successivo, quindi ha portato in seguito le piogge alluvionali in parte su Piemonte e di nuovo Liguria, e anche sulla Costa Azzurra e sulle Cevennes, con risultati che poi sappiamo dalle cronache hanno determinato da un lato la grande piena del Po e dall'altro una serie di gravi danni su tutte le località costiere del Midi francese. E naturalmente esiti molto diversi, perché l'abbiamo detto più di una volta, continueremo a farlo, a parità di condizioni, appunto, di eventi, di violenza, poi sul terreno le conseguenze sono molto diverse a seconda della fortuna, in piccola parte, ma della preparazione, dell'urbanizzazione, eccetera, eccetera. Ma torniamo sull'elemento meteorologico. Dunque, questo piccolo ciclone o cicloncino, come l'ha chiamato Mercalli, ecco, di fatto resta tale perché alimentandosi di energia non trova quelle risorse formidabili che ha nei Caraibi, è giusto? Diciamo che la ragione per cui c'è stata questa rigenerazione della depressione secondaria risiede proprio nelle tiepide acque del Golfo del Leone, che quest'anno avevano circa un paio di gradi oltre la media normale per questa stagione, probabilmente come effetto del caldissimo settembre che abbiamo avuto. Ecco, poi si è esaurito e tutto, insomma, è terminato il giorno 8 di novembre, comunque con una settimana veramente burrascosa di tempesta. Ora si tratta di definire se questi sono primi segni di un cambiamento climatico nuovo, quindi fenomeni nuovi, oppure se rientrano nella normalità. Ecco, eventi isolati, insomma, o avanguardie in qualche modo di comportamenti meteorologici che sono stati peraltro ampiamente annunciati negli anni. Quante volte abbiamo sentito dire che una delle caratteristiche del global warming sarebbe stato l'estremizzazione dei fenomeni? E quindi diciamo che probabilmente ci sono tutti e due questi segnali. Cioè, sarebbe scorretto attribuire solo ai cambiamenti climatici recenti questi episodi, perché abbiamo visto, parlando del 1970 piuttosto che di mille altri episodi che costellano la nostra storia, ci sono sempre state delle alluvioni, delle piogge intense, delle situazioni simili. Però possiamo sicuramente dire che si stanno inserendo nella normalità climatica a cui siamo abituati probabilmente questi segnali nuovi. Ora è difficilissimo dare una percentuale, io vi posso così dare delle cose molto empiriche, tanto per far capire a chi ci ascolta, non ha nulla di scientifico, ma se io dovessi dire quant'è la percentuale di novità climatica rispetto alla normalità, potrei dire che siamo 90% è già visto, rientra nella nostra storia climatica normale, 10% punto interrogativo potrebbero essere ormai i primi segni di un'evoluzione nuova, che vuol dire avere probabilmente in futuro eventi più frequenti. E quest'anno l'abbiamo visto, il fatto solo che a distanza di una settimana due strutture indipendenti da un punto di vista meteorologico hanno dato l'alluvione nelle Cinque Terre in Lunigiana e poi quella Genova Costa Azzurra. Questo potrebbe essere un segnale interessante, eventi quindi più ravvicinati e o più intensi, ma questo purtroppo non siamo ancora in grado di stabilirlo con certezza. Le misure vanno avanti, nel corso dei prossimi anni lo si vedrà se ci sarà una tendenza di questo genere. Ci sarà chiarezza maggiore naturalmente via via che si accumulano informazioni. Intanto si riflette sugli allarmi e sulla prevenzione. Adesso sentiamo insieme come vanno le cose sulle strade italiane, poi torniamo con Luca Mercalli per affrontare questo aspetto che è sempre oggetto di polemiche, ma che l'abbiamo detto, io lo ribadisco ormai da molti giorni, che, come dire, soffriamo a fare prevenzione e soffriamo spesso a considerare degnamente gli allarmi che pure vengono lanciati. 30 minuti in cronaca. Allarmi e prevenzione, dunque, l'abbiamo detto su Genova, c'è stata una polemica dolorosa perché riguarda evidentemente delle vittime tra il sindaco, vi avevo avvertiti, la città era stata informata, la risposta è stata perché non chiudere le scuole come è accaduto a Savona, ma tanto per spostarci anche su un evento che ha avuto veramente portata planetaria, vi voglio ricordare quanto è accaduto il 28 agosto scorso a New York. Arrivava Irene, i titoli di mezzo mondo, anzi forse del mondo intero, erano New York chiusa causa Irene, poi l'uragano passa, non accade nulla di drammatico, perché attenzione, era una situazione in cui 4 milioni di persone sono rimaste senza elettricità. Bene, anche negli Stati Uniti, quindi non è solo una questione italiana, partono polemiche rivolte al presidente Obama, che si è speso in prima persona per comunicare questo allarme. Ecco, Mercalli, uno dei problemi di queste, diciamo, di questi allarmi, di queste previsioni, che hanno delle implicazioni sociali immediate, cioè bloccare una città, fermare le scuole, e non c'è certezza su questo. Allora, possiamo dire che le previsioni di cui oggi disponiamo intanto sono già qualcosa di assolutamente nuovo e sufficiente a prendere dei provvedimenti, confrontate solo come erano le previsioni del tempo 20 anni fa, e ci si sarebbe ritrovati sull'uragano forse con potenzialità di previsioni di poche ore, mentre oggi si possono avere 3-5 giorni di anticipo per prepararsi a sufficienza. Però manca la precisione, è evidente che nessuno è in grado di dire l'ora e il quartiere dove si potrà verificare un disastro, e quindi rimane questa forchetta così di incertezza che implica una mobilitazione di una vasta area e poi qualcuno viene toccato, qualcuno no. Ricordo che nel caso dell'uragano Irene lo scarto tra New York e invece le zone più investite, che furono quelle appena più a nord di tutta la zona del Vermont e della zona interna dello stato di New York, ha generato dei danni enormi, ci sono state delle imponenti alluvioni, ci sono stati più di 50 morti, quindi direi che erano tutte precauzioni assolutamente corrette. Poi la gente dopo è sempre pronta a commentare, io quel giorno lì dovevo fare una cosa, mi avete rovinato l'agenda, e sì, però mi sembra che ne valga la pena, quando si è in grado di prevedere un fenomeno intenso, vale la pena fare... mettere in atto regole di prevenzione, se poi non capita niente vorrà dire che abbiamo fatto una bella esercitazione di protezione civile, che è sempre utile. Gli americani questo lo sanno bene, perché tra l'altro sono stati scottati da Katrina, che di morti ne ha fatti 4.000 a New Orleans nel 2005. Invece noi non siamo assolutamente abituati a farlo, quindi in Italia, nonostante la frequenza di questi fenomeni, non abbiamo prevenzione da un punto di vista del pubblico, delle persone normali. C'è un buon servizio che funziona a livello istituzionale, abbiamo ormai, dopo le alluvioni del 94 del 2000, si è imparato molto di protezione civile da un punto di vista degli addetti ai lavori. Ora bisogna lavorare sulle persone, cioè non si può vivere come si vive tutti i giorni quando c'è un'allerta di questo genere, e se poi non capita niente non si deve andare a impiccare l'amministratore di turno. Tanto meglio. Allora sentiamo insieme il commissario europeo alle emergenze, la bulgara Kristalina Georgieva, che ci dà un dato sul costo delle emergenze legate appunto ai fenomeni climatici in Europa. Sentite. At European level it means bringing together our capacities A livello europeo significa fare unioni di tutte le nostre capacità per poterle utilizzare laddove i disastri colpiscono uno qualsiasi degli nostri stati membri. I teams che noi abbiamo messo su hanno una elevata formazione per poter salvare le vite e per garantire la protezione alle nostre popolazioni. Negli ultimi 10 anni ci sono stati 100.000 morti per via di disastri naturali e che sono costate un totale di 150 miliardi di euro. E desidero anche esprimere tutta la mia solidarietà al popolo italiano così duramente colpito per le inondazioni. Allora, Cristelina Gheorgheva ha il compito di coordinare e di organizzare quel livello di protezione civile europeo che naturalmente riguarda i 27 stati dell'Unione con situazioni e organizzazioni diverse. È stato abbastanza esemplare anche quanto accaduto proprio in questi giorni, il fatto che ci fossero degli interventi in Liguria da una parte, in Costa Azzurra. È chiaro che sono due paesi con una struttura molto organizzata, ma non è sempre accaduto così. Anche lo scorso anno sul Danubio c'è stato un intervento coordinato a livello europeo. Insomma, il dato impressionante sono i morti nel mondo, i fenomeni climatici che possono produrre danni devastanti. In conclusione, Luca Mercalli, lei dice: nel frattempo è opportuno attrezzarsi. Ecco, come ci attrezziamo in una situazione appunto che, come ci ha spiegato, è in buona parte incerta, però insomma chiara nei suoi effetti quando poi si sfoga sulle nostre terre. Perché possiamo dire, da un lato abbiamo già questa eredità del nostro passato che ci dice che comunque le alluvioni sono frequenti. Se poi i cambiamenti climatici le renderanno ancora più gravose, vuol dire che dobbiamo lavorare sodo per limitare il più possibile i danni, e questo si fa con una buona pianificazione del territorio. Bisogna avere il coraggio di impedire nuove costruzioni, soprattutto nelle aree vulnerabili, perché si aumenta chiaramente il rischio. Più cose noi mettiamo sul territorio, più un'alluvione avrà materiale da distruggere, e soprattutto dobbiamo lavorare per prevenire poi la perdita di vite umane. Il secondo punto è l'educazione delle persone, quindi dobbiamo fare informazione più capillare, spiegare alle persone come ci si comporta già come soluzioni di autoprotezione. La protezione civile non può proteggere tutti, quindi ognuno deve fare la sua parte in corso di evento, poi dopo ci si occuperà dei soccorsi in seguito, ma bisogna già salvarsi da sé. E infine, chiaramente dal punto di vista scientifico, va avanti la ricerca per provare a darci delle previsioni sempre più dettagliate e ridurre ancora questi margini di incertezza e non avere i falsi allarmi, che sono deleteri, ma direi che negli ultimi anni ce ne sono stati veramente pochi. Cioè, l'evento c'è sempre, poi può essere più o meno gravoso, ma non è che si prevede l'alluvione e poi c'è il sole. Questo capitava 30 anni fa. Oggi si prevede l'alluvione e la pioggia c'è, i fiumi salgono. Se poi non ti sono entrati in cantina, puoi essere solo contento, e hai capito però che cosa vuol dire confrontarsi con un evento estremo. Grazie a Luca Mercalli, è stato chiarissimo, grazie di essere stato con noi questa sera per come dire, mettere a fuoco anche un po' i termini di una settimana lunga, in realtà di 10 giorni, che hanno colpito molte aree del nostro paese, del Mediterraneo, come avete sentito. Siamo in conclusione, mi resta solo da ringraziare Peter Bescapè in regia questa sera, ricordarvi radio24.it. un saluto da parte mia, l'appuntamento con 30 minuti in cronaca per sabato prossimo alle 19.30.